Sim. Salambim. Sim. Salambim. Salambim. Ma cos'è questo? È il mago Silvian. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto carissimo da K, che oggi è venerdì. È un saluto da Drago, sì, è venerdì. Quindi facciamo fretta, dai. Allora? Allora cosa? No, guarda che secondo l'International Bureau of Weights and Measures di Parigi, oggi è venerdì. Sì, ma anche secondo tutti gli altri è venerdì. Sì, ma se lo dice anche l'International Bureau of Weights and Measures di Parigi, sembra di più venerdì, sembra più vendredi. Va bene, vendredì, certo, sì. Che poi non ho capito una cosa io. Cosa? Una volta la sede ufficiale delle misurazioni di spazio, tempo, chili, robe era Zurigo. Ah sì, Zurigo. Cioè, non ti ricordi che a scuola ci insegnavano che il metro aveva come riferimento una roba lunga un metro conservato in una teca a Zurigo? Ma vagamente mi ricordo, sì, Zurigo. Adesso sì. È spuntata fuori Parigi, così arriva a Parigi. Ma Parigi è sempre Parigi, no? Ma cos'è, Sanremo? Vabbè, allora anche Zurigo è sempre Sanremo. La Madonna, Tito! Dai, Zurigo è sempre Zurigo al massimo. Ci sei mai stato a Zurigo? Come no? Una volta nella vita. Ah, ci hai vissuto? Sì. Vabbè. Comunque, venerdì, quindi è il giorno giusto per provare a sentire il nostro amministratore delegato. Cosa dici? Beh, proviamo. Perché di venerdì gli amministratori delegati sono già in vacanza. Ah, quindi sì, beati loro. Certo, lo fanno la settimana corta. Sono fortunati. Poi mica si diventa AD per caso, No, lo diventi solo se ti piace fare la settimana corta, no? Allora sarei un AD perfetto, no? Mi vedi? Sì, un numero della rivista AD, perfetto, infatti. Non certo l'amministratore delegato. Ma fai anche arrabbiare Tito. Ma quale rivista AD? Quella di architettura, no? Non so, ma allora, cosa c'entro io con AD, la rivista di architettura? Dai. Niente, però dai, non perdiamo tempo. Io chiamiamola AD, dai. Siete in linea con Edizioni Containast. Sì, pronto? Sono Drago di Radio 24, volevo parlare con AD. Con chi di AD volete parlare? Che a quest'ora sono in pausa in redazione. Con l'AD di AD. Sì, l'AD di AD. Con chi deve parlare di AD della redazione? Con Paolo Frasconi. Come si chiama? Non lo ricordo più. Frasconi. Bene, ma dai, ma come si fa a fare delle telefonate così? Siamo in diretta. La gente è anche in pausa. Ma è facile. Sì, abbia pazienza, scusi. Chiamiamola D la prossima volta, allora. Chiamate quando volete. Grazie. E ora, bambini, ricreazione. Ciao ragazzi, dovete aiutarmi per favore, ho bisogno di voi. Aiuto. Non dovrebbe essere che dobbiamo fare l'intervista. Stavolta è una cosa importante. Sì. Allora, ho deciso di fare una televendita. Vabbè. La televendita però dal vivo, no? Qui live, vendere merce usata, di valore però, antiquariato. Vabbè, il mercatino, vabbè. Sì. E farla qui in cortile, no? Quindi qui, perché a me servono soldi. Qui euro non ce n'è più, voi mi insegnate. Quindi l'unica soluzione è dire cosa c'ho in casa che posso vendere. Niente, sei un bambino, cosa vuoi vendere? No, invece no. Allora, c'ho una collezione di merendine, vecchie confezioni, confezioni in buono stato e anche merendine, confezioni mai aperte, Queste sono quelle che valgono di più, Ma buono stato cosa? Sia le confezioni che le merendine? Buono stato. Sì, sì, stato perfetto. Come le bottiglie di vino, no? Se tu compri una bottiglia di un secolo fa, finché non l'apri, non sai se è andata in aceto, no? Così come per le merendine. Ma la merendina marcisce, c'ha la data di scadenza. Vabbè. Se non l'apri, è lì. C'è una merendina del giorno che nasce mio figlio, me la mangio. Così. Sì, poi ogni volta rimanda. Facciamo il secondo figlio. Ma non si usa. Io non credo che non ci sia nessuno che faccia così, hai capito? E non credete che non mi piaga il cuore, Perché? No, privarmi della mia collezione di merendine? Ma vabbè, uno strazio, però non posso fare altrimenti. Cioè, ma di carte di merendine? Come fai a tenere le merendine? No, tutte e due! A seconda che sia una carta, che sia la merendina intera, cambia valore, ma no? Sono piene di vermi. Comunque, torniamo a bomba, perché qui non c'è tempo da perdere. Io devo fare una prova di vendita, almeno una. Sì. E voi dovreste fare da cavia, no? Vabbè, dai, prova. Dovete fingervi di potenziali acquirenti, no? Vabbè. Dai, cominciamo subito con questo. Dai, comincia. Dai. Chissà cosa vendono qui, chissà che se hanno le merendine marce. Quella è la tele, ma non è televendita. Ma non è così. Televendita è il format, live. E poi live, ho capito. Signore e signori, perché dice anche sono bambini. Dai, vai. Oggi avete il privilegio, l'opportunità, la possibilità di andare a valutare, a considerare, a soppesare quello che potrebbe essere un acquisto che darebbe un valore aggiunto alla vostra collezione. Sono sempre tre sinonimi, vabbè. Stiamo parlando di pezzi unici di inestimabile valore. Sì. Che potete ponderare e considerare ad un prezzo che non ha nessun nesso logico all'interno di una dinamica di collezionismo di livello importante. All'interno di, vabbè, quindi, dinamica. Adesso, amici, prendete nota e vado a presentarvi una carrellata di tutte le opere presenti nel lotto di oggi. Non si capisce niente di come parla. Lui ha scritto tutto, però. Ma lasciatemi finire, no? Ok, dai, vai avanti. Ancora venire. Dai, allora. Se te le cavi, ricordate. Sì. Perché quella acquistare per assistere è una forma commerciale rivoluzionaria, eh? Sì. Poi voi non dovete comprare niente, non tirate fuori neanche un euro. Ah, sì. Voi potete valutare senza impegno l'opera che scegliete. Sì. L'opera. Comunicate al mio assistente l'oggetto che vi interessa. Sì. E questo vi sarà consegnato gratuitamente in visione. Sì. Comunque voi siate all'interno dell'asilo, comprese le cantine. Sì. Ma scusa, l'opera, sono merendine e marce. No, che opera è? Allora, su quello, fatemi dire una cosa per volta, no? Affrontiamo uno step per volta. Vabbè, comunque, l'assistente, chi è l'assistente? Sarà Gido, no? Ho capito. Meno male. Facciamo un esempio, voi scegliete una merendina, no? Un Tintin del 69. Sì. Nel 1969. Quello che regalava il tandem, mi ricordo. Comunicate al mio assistente Gildo. Sì. Dove e quando ricevere l'oggetto in questione? Sì. Tipo, vorremmo ricevere l'opera davanti al bagno delle femmine alle 11.45. Sì. E qui non è un problema. Capito? No. Sarà nostra premura farvi recapitare la merendina senza nessun esborso da parte vostra, è gratis! Ma se la voglio adesso qua, a quel punto, ricevuta dall'assistente la merendina, potete valutare, considerare, ponderare, di nuovo, addirittura soppesare il pro e contro di una scelta che potrebbe proiettarvi nell'importante ambito del collezionismo. Ma basta, ma quale collezionismo? Ci siamo quasi, dai! Parla e basta, dov'è ste opere? Allora. A questo punto, solo, ripeto, solo, solo se avete deciso di diventare protagonisti del Novecento, corrisponderete al nostro 2000. Incaricato la risibile cifra della richiesta per un oggetto che cambierà il volto della vostra casa. La merendina. E voi, voi pensate soltanto alla reazione dei vostri ospiti, dei vostri amici che vengono a cena. Che entrano e vedono in bella vista su un comò dell'ingresso un autentico Tintin di 69. E soprattutto quando scoprirà, quando voi chiedete, ma come fai a avere un Tintin di 69? Chissà quanto l'hai pagato. Oh, guarda che 2800 euro. Ma come? Ma una merendina marcia? Ma cioè, ma cosa 2800 euro? Solo 2800 euro? Ma come solo? Non è solo la confezione, c'è la merendina che vedo. Marcia. Beh, allora, intanto, che la merendina sia marcia è solo una remota ipotesi. Remota. E poi finché non viene aperta? Sì. Non sapremo mai. Cos'è? La scommessa? Scommetti 2800 euro che... No, io vendo. Ho capito, ma... Vabbè, comunque, noi non vogliamo comprare niente. Concludiamo l'acquisto, no? Ma come concludiamo l'acquisto? Ma no! Se non siete convinti del Tintin, posso anche eccezionalmente prospettarvi l'importante possibilità di analizzare l'occasione di valutare un formaggino mio del 1966. Di gesso. Di un calippo del 1981! Ma il calippo! O anche... questa è l'offerta che il direttore mi dice che posso fare. Allora, un ovetto Kinder, Pasqua 1984, edizione limitata, 1 milione di esemplari. È limitata, 1 milione archiviata, di esemplari. Firmata, completa di expertise. Di? Expertise! C'è uno studioso che ha chiesto... Il pedigree di questo ovetto Kinder. Questo ovetto Kinder 84 non è un falso. C'è anche un nome. E la sorpresa c'è? Quello dipende. Sì che c'è, la sorpresa del 84. Ma se non è stato aperto... c'è anche la sorpresa. A meno che... con sotterfugi assurdi. Poi io ovviamente sono totalmente all'oscuro. Esatto, E si è stata asportata. E a proposito di questo, accanto all'acquisto c'è un foglietto, una firma di laboratorio, per dire che io non so, eventualmente manca la sorpresina. Non è un problema che mi riguarda. Io li sono andati. Sì, vabbè. Comunque noi questo non ci interessa, lo tagliamo. Noi non vogliamo comprare niente. Questa era una prova, no? E poi cosa ce ne facciamo di dolciumi? Ma chiedetemi il prezzo del Kinder. Ma come? Ma non voglio comprare niente. Allora non capite? Verrà il giorno in cui vi pentirete e anche amaramente di non aver voluto soppesare, considerare, valutare, ponderare di questo genere. Comunque smettila di parlare come una semi-analfabeta che ha imparato tutto a memoria. Mi sa che la tua idea di fare soldi con la televendita live non è granché. Ah sì, guarda, non venderai niente. Bravi, begli amici che siete. Ma begli amici. Anche sprovveduti poi. Dovevamo fare il test. Ma vi sareste portati a casa l'ovetto Kinder per poco, un migliaio di euro. Allora. Migliaio di euro, e chi dia? Comunque il tempo dirà chi avrà ragione. Va bene? Sì, ecco, bravo. Intanto il nostro tempo è scaduto, noi ce ne andiamo. Possiamo andare, capo, perché qui finisce proprio. No, dai. Poi posso farvi lo sconto, Cioè, valutate almeno l'eventualità di considerare l'opportunità di darmi 50 euro, no? Devo andare a giocare alle macchinette. Ve le do la prima vendita che faccio, no? Cappa! Drago! Allora, Gildo, tu ci sei almeno? Tu ci sei? meno male tu ci sei. Tu mi dai quei 50 euro adesso. Io vado a fare questa roba importante delle macchinette. Domani te le ridò, perciò la vendi domani mattina. Ho piazzato il formaggino mio. No, mio! Il mio formaggino mio! Mio formaggino mio! Tu dare a me 50 euro! Dare a me! Tu! Tu! No! Io non ho! Io do ricevere da te 50 euro! Devo ricevere da te 50 euro! Tu! Ma vaffanculo! Io non ti devo un c***o! Chiedo asilo, finisce la settimana. Ringraziamo Laura Faggin, Pietro La Corte, Guido Bertolotti, Tommaso Varvello, Alberto Caserini, Cappa e Drago, il cane Tito. E vi invitiamo tutti a scrivere a chiedoasilo@radio24.it, a scrivere sulla bacheca di Facebook Chiedo Asilo e a telefonare a 02 46 52 44 95. Ma tu ci credi quando dici queste cose? Ah, si sente.